a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Bentrovati da Francesco Galante a Regola d'Arte, questo nostro appuntamento grazie all'UPA, Unione Provinciale Artigiani. Oggi parliamo di un argomento importante perché parliamo di autotrasportatori. C'è un evento proprio dedicato agli autotrasportatori, la giornata dell'autotrasportatore è tutta la giornata di domenica 5 giugno in zona industriale a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova. Ne parliamo con Michele Varotto, presidente del sistema di categoria autotrasportatori di UPA. Benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, c'è questa giornata dell'autotrasportatore che avete organizzato. Come sarà la giornata e che cosa succederà? È una giornata che in collaborazione con la CNA e finanziato dall'Ente Bilaterale Veneto mettiamo a disposizione dei nostri associati. È una giornata che è all'interno della fiera dell'autotrasportatore di Carmignano e noi abbiamo messo uno stand a disposizione, dove alla mattina c'è la possibilità di avere un incontro con i nostri consulenti tecnici ed esperti, in modo da dare dei consigli, dare delle consulenze che possano essere utili per la gestione dell'attività. Nel frattempo si svolgerà anche un corso di guida sicura per i nostri autisti che daranno delle riduzioni alle nostre aziende. Ci sarà un avvocato che darà delle consulenze gratuite, dove abbiamo fatto anche un accordo che per il prossimo anno chi avrà bisogno delle consulenze è a disposizione. Poi ci sarà il pranzo sociale e il pomeriggio ci sarà l'incontro con il presidente Unatras Genedani, che è la massima rappresentanza di un comitato di tutti i trasportatori italiani. Ecco, quindi un bel momento di approfondimento per tutti gli autotrasportatori. Questo appuntamento è domenica 5 giugno, ma viene segnalato anche sabato 4. Sabato 4 c'è la festa del camionista, noi all'interno abbiamo solo il corso di guida sicura, poi ci sarà la fiera normale di Carmignano di camionisti, quindi ci saranno a disposizione di chi ha bisogno di passare la giornata. Ecco, quindi come dicevamo un bel momento da vivere per tutti gli autotrasportatori. Esatto, il nostro momento clou è domenica comunque. Domenica, allora ricordiamo a Carmignano di Brenta c'è questo appuntamento da vivere per l'intera giornata con l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Parliamo di problemi che ci sono al momento per gli autotrasportatori. Perché c'è l'intenzione, è stato dichiarato, proclamato un fermo generale, no? Sì, è stato proclamato un fermo generale di cui credo martedì ci sarà la riunione dell'esecutivo Unatras, molto probabilmente o no, verrà decisa anche la data. Qual è il problema? C'è il comportamento del governo che non ha rispettato gli impegni sottoscritti a novembre. È stato fatto un protocollo di intesa con il governo in modo da mettere in sicurezza le nostre attività, in modo di saltare il dumping sociale che abbiamo verso le aziende dell'estero oppure nel mercato europeo. Su quello che è stato firmato nel protocollo d'intesa, il governo solo una piccola parte ha emanato i decreti. Abbiamo sul piatto diversi decreti, anche diversi soldi a disposizione e soprattutto per noi artigiani la parte principale sulle deduzioni forfettarie, e non hanno ancora dato la cifra e le emanazioni. Quindi ci troviamo a fare dichiarazione di redditi qui a metà giugno. Sì. Abbiamo gente che ha fatto dei programmi annuali per la loro attività e si trovano in difficoltà. Nello specifico riusciamo a essere più precisi per far capire anche ai nostri amici, dando qualche esempio in più? Abbiamo un esempio che abbiamo un rimborso giornaliero di circa 56 euro negli altri anni e 72 per le fuori regioni. Questo è un po' tecnico. Il governo ha detto che le quote erano sotto i 50 euro, adesso ha proposto 51 euro, per noi 51 non è ancora abbastanza. Ho capito, quindi bisogna vedere se le cose verranno accomodate oppure no. Certo, anche perché a dicembre avevamo dei rimborsi decisi per i nostri associati sull'euro 0, 1 e 2 che erano a favore dei nostri sottratti, il governo li ha tolti dicendo che rimetteva quei soldi per l'acquisto di camion nuovi, per i finanziamenti, per l'intermodale, per tante cose. A tutt'oggi non sappiamo ancora che disponibilità abbiamo di questi soldi. Prima ci sono stati tolti, sicuramente, quello è sicuro, però non sono ancora stati rimessi a giro. Ecco, un'altra cosa che credo sia importante è il discorso del Brennero, no? Se ne sta parlando parecchio. Cosa potrebbe succedere se iniziassero ad esserci tutti i controlli al Brennero? Il Brennero al momento non ci sono grossi problemi. Nel momento che ci sono dei controlli, anche dei minimi controlli, c'è un rallentamento di transito che diventa una cosa insostenibile. Ricordiamo che passano 500 mezzi all'ora, anche 30 minuti o 40 mezzo di fermo ha una ripercussione micidiale su tutte le aziende di trasporto all'inizio, poi sul committente, anche perché abbiamo delle ore di guida a disposizione che non possiamo spostarci, quindi salta tutto il sistema produttivo. Ecco, e in questo caso chi ne risente di più a livello regionale, proprio le regioni del nord? Le regioni del nord, ricordiamo che il 30% del materiale che va all'estero passa per il Brennero delle nostre aziende del nord-est, e quindi è una ripercussione micidiale. Non vorrei, come ho già detto, che ci fossero altri motivi politici che noi non conosciamo, non sappiamo e non ci interessa sapere a nostro scapito. Ecco, proprio per questo voi avete proclamato il fermo, generale dell'autotrasporto. Adesso bisognerà capire se questa cosa andrà avanti. Nel caso ci fosse, si fermano tutti i trasporti in tutta Italia. Se ci fosse, si ferma sì, perché una TRAS, quando proclama un fermo, rappresenta il 90% dell'autotrasporto italiano. Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Certamente. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Where are you now? a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme nel nostro appuntamento di A Regola d'Arte, vi ricordo con noi c'è Michele Varotto, presidente del sistema di categoria autotrasportatori di UPA. Stavamo parlando del fermo generale che è stato proclamato per gli impegni che sono stati disattesi dal governo per la categoria dell'autotrasporto. Che cosa vogliamo dire ancora? Vogliamo dire che noi siamo sempre pronti al confronto, ormai sono 20 anni che ogni anno ci troviamo a essere in confronto col governo e qualcosa, e alla fine riusciamo sempre a trovare una quadra sul discorso, è che ogni anno ci erodono sempre un qualcosina. Noi capiamo il periodo di crisi, capiamo tutto quanto, però le nostre aziende fanno fatica a stare nel mercato. Io ricordo che il mondo artigiano dell'autotrasporto rappresenta il 90% dell'autotrasporto, perché fino a 10 dipendenti rappresentiamo il 90% e fino a 5 dipendenti rappresentiamo il 70% dell'autotrasporto, quindi è la realtà più importante. Se qualcuno pensa nel tempo di far sparire questa categoria, sbaglia, perché i numeri parlano chiaro, anche perché noi riusciamo ad adattarci al mercato, riusciamo a stare nel mercato e con quello che abbiamo riusciamo ad andare avanti. Io credo che se un governo ci dà possibilità di crescere, noi siamo sempre pronti a crescere. Il domandare sempre soldi può essere una cosa sbagliata. Loro ci diano la possibilità di crescere, le strutture, meno burocrazia, più flessibilità e tutto quello, noi riusciamo a stare nel mercato. Ecco, una domanda. In un periodo dove, per esempio, la Svizzera ha aperto una nuova galleria, no, per il trasporto anche su rotaia, quali sono le prospettive del lavoro dell'autotrasportatore? Ma l'ultimo miglio lo deve sempre fare il trasportatore, non c'è discorso, cioè le sue lunghe percorrenze, mi va bene il treno, no, basta che sia competitivo, noi carichiamo i nostri merci sul treno, carichiamo il camion, quello che ci danno la possibilità di strutturare, di fare, noi facciamo. Però ricordiamo che poi tutta la parte di distribuzione degli ultimi 100 km, 50, lo deve fare l'autotrasporto e non può farlo il treno. Poi abbiamo una conformità noi dell'Italia che non abbiamo gallerie da 50 km dappertutto, quindi è più complicato andare sul treno, anche perché abbiamo delle strozzature per l'Italia che rallentano. Non è competitiva in questo momento la ferrovia. Il ministro dice che vuole per i prossimi 20 anni portare la merce del 30% su treni. Io dico che prima faccio i lavori e poi noi montiamo sui treni. Le promesse sono finite. Ricordo ancora quindi a Carmignano di Brenta l'edizione 2016 della giornata dell'autotrasportatore con domenica 5 giugno, eventi, dimostrazioni e approfondimenti con l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, dove saranno proposti un check-up aziendale orientato al risparmio, un progetto di assistenza a favore delle imprese curato dall'avvocato Paolo Malaguti, che si occuperà anche del delicato tema dell'omicidio stradale e delle ripercussioni per la categoria. Saranno fornite inoltre indicazioni riguardanti il costo e il corretto inquadramento del personale. Grazie a Michele Varotto, presidente del sistema di categoria autotrasportatori di UPA, per essere stato con noi. La ringrazio e buona giornata. E chiudiamo il nostro appuntamento di A Regola d'Arte con alcuni appuntamenti. Domenica 5 giugno alle 14.30, nell'ambito della giornata dell'autotrasportatore, si terrà il convegno Accise, deduzioni forfettarie, sconti autostradali. Per quanto ancora? Interverranno il sindaco di Carmignano, Alessandro Bolis, il senatore Antonio De Poli e il presidente nazionale UNATRAS, Amedeo Genedani. È stato invitato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Simona Vicari. Le domande agli ospiti saranno poste da Michele Varotto, presidente provinciale del sistema di categoria autotrasportatori di UPA Padova, e Piercarlo Pedroletti, presidente provinciale FITA CNA. Mercoledì 8 giugno, altro appuntamento alle 19, il titolo è «Come muoversi nel complicato mondo delle pensioni». L'Unione Provinciale Artigiani presenta il nuovo sportello Previdenza Complementare nella sede UPA di Monselice in via Rovigana 7/3. L'iniziativa è promossa dal gruppo Giovani Imprenditori di UPA e da Confartigianato Donne Impresa in collaborazione con lo sportello INAPA e Solidarietà Veneto. Termina quindi A Regola d'Arte, il prossimo appuntamento la settimana prossima. Per avere maggiori informazioni basta collegarsi al sito dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova all'indirizzo www.upa.padova.it oppure ai profili social di UPA su Facebook, Twitter e YouTube. Avete ascoltato a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.